John. John, okay. Sì, no. Perché io sono maschio, un vero maschio. Adele. Adele è femmina al 100%. Fatta tutta di ormoni femminili. Senza nemmeno uno maschile. Femmina come io sono maschio. Eravamo fatte per amarci, capirci, vivere insieme. Quando ci dissi che me la volevo sposare, e lei subito si buttò fra le mie braccia. Fu un fidanzamento lampo. Lei 17 anni, io 43. Una coppia meravigliosa, meravigliosa. Lei di bianco, io di nero. In una chiesetta che profumava tutta di fiori d'arancio. Lei era pura, intatta, proprio come io volevo. Anche se la prima notte non mi fu possibile averne la prova perché l'emozione mi paralizzò. Fu emozione. E soltanto emozione. Perché mi ripresi la notte successiva e chiamammo, oh, se chiamammo, dopo il gelo della prima notte. Chiamammo così tanto che io cominciai a sentire vergogna della mia esuberanza. Vergogna. Ed anche un... Scusate, mi dite così. Ed anche un forte esaurimento. un grande esaurimento nervoso. Vabbè, mi viene da ridere perché. Vabbè, ok. Alla situazione. Così che dovetti inventare delle scuse di lavoro inesistente per potermi rinchiudere la notte nel mio studio e lasciare che Adele sola nel grande letto matrimoniale trovasse il meritato riposo. Noi, uomini del sud, quando è necessario, la femmina la sappiamo anche rispettare. Ed io, Adele, la rispettai, proprio quando la mia età e le mie forze la imponevano. Ci dovevo però concedere altre innocenti diversioni per compensarla del mio rispetto, che a volte era eccessivo. Così le permettevo di andare sola dal parrucchiere, sola a fare le sue spesucce, sola dalla sarta, da sola in macchina di qua e di là, e finanche certe volte, signora, senza di me, al cinema. Fu a questo punto della nostra vita che comparve Giorgio, un giovanottello stento, la più bellezza febbrica. Poteva turbare solo qualche vergenella che non sapeva cos'era l'amore. Noi, uomini del sud, non crediamo all'amicizia fra i due sessi e sempre la combattiamo. A Giorgio mi sembrava così inoffensivo. La nostra serva annunziata, coi suoi peli e i suoi muscoli, sembrava più virile di lui. E poi Giorgio era un uomo così poco uomo. Non parlava di cavalli e di macchine, no. Parlava di pittura e di poesia. Non urlava, non bestemmiava mai. Cantava. Cantava certi motivetti del Settecento. Non fumava. Non beveva. Per carità, non beveva. Ma a lungo andare mi cominciò invece ad infastidire la sua assiduità con Adele. Pregai mia moglie di toglierselo dai piedi, ma lei invece si divertiva e sfidando la mia rabbia continuava a vederlo, dicendo che la mia assurda gelosia la divertiva da morire. Insistetti ancora, ma senza risultato. A quel punto, voi lo capite, si trattava di difendere il mio onore. Così decisi di passare alle vie di fatto. E un giorno che lo sorpresi mentre l'accompagnavi a casa e strazzi la pistola e l'hai sputato. Adele non batte ciglio. Si chinò su Giorgio per raccogliere l'ultimo respiro. Poi si voltò verso di me dicendomi che il mio era stato un delitto stupido, perché lei a quel ragazzo non aveva mai concesso né un bacio, né un pensiero, né un sospiro. Però mi promise che avrebbe testimoniato a mio favore. E infatti venne in tribunale per il processo tutta vestita di nero e improvvisò una sua difesa per salvarmi. Così mi trovai libero e cornuto. Libertà vigilata e corna di dominio pubblico. Io sapevo che Adele aveva mentito in tribunale per salvarmi e mi sentivo pieno di gratitudine per lei. Ma Adele rifiutava ogni intimità, finché una sera, non resistendo più all'amoroso digiuno, bussai come una furia alla sua porta, scongiurandola di lasciarmi entrare. Mi rispose secca, pregandomi di non disturbarla. Non era solo, c'era un uomo con lei. Diventai un demonio, diedi pugni e calci contro la porta, mi lamentai come una bestia ferita, piansi, bestemmiai, pugnai la pistola. E fu allora che Adele, fragile e menuta, comparve sulla porta in camicia da notte, pregandomi di smetterla di minacciarla. Di uomini ne avevo già ucciso uno, il più inoffensivo, il più innocente. Lo avevo fatto per pulire il mio onore, ma siccome lei prima il suo onore non lo aveva macchiato, lo macchiava ora, per mettersi alla pari. Del resto, perché avrei dovuto sparare ancora? Un secondo delitto mi avrebbe mandato irrimediabilmente in galera, tenendomi così lontano da lei e senza avere nemmeno più la possibilità di controllare quell'onore che me lontano lei avrebbe avuto ancora più motivo di macchiare. Anche in questo momento lei è a casa, a letto con un uomo, ed io, pur disprezzandola, non posso fare a meno di amarla, e la amo rabbiosamente, disperatamente, come può amare un uomo del sud che si strugge d'amore, ma che ha paura della galera. Adele fa le cose con discrezione. In paese nessuno sospetta nulla. Tutti ci credono felici. Ed io ora posso andare a testa alta perché quelle corna che la gente crede lei mi abbia messo allora sono state vendicate. E di queste nessuno ne sa nulla. Ok. Stupendo. Il Signore. Io continuo con questo. No, lascio la forza qualificatrice. Quello... Un attimino, scusa. Questa storia? La sa qualificatrice. Che c'è di un tuo commento? Ti piace l'ultimo no più o meno? Ragazzi, sono delle storie bellissime, credetemi, bellissime, tutte. Orgasmo più, orgasmo meno, sono tutte storie bellissime. Allora. Ok, ci siamo. Quello che mi piace qui dentro è questo bel bambino. Che gioia mi dà vedere scorrere quest'acqua fresca, limpida, pulita. Fa venire voglia di passare il tempo a lavarsi. Io me ne sto ore ed ore con le mani sotto il rubinetto ad insaponarmi, sciacquarmi. Non la smetterei mai, perché per tanto che mi lavi ho la sensazione di non avere mai le mani completamente pulite. Per questo me le lavo continuamente e non uso che sapone, ma sapone vero, quello da bucato, il solo sapone che non ha odori e sa di pulito. Quella di lavarsi è la sola grande gioia della vita, perché solo quando si è puliti si è sereni e soddisfatti. In fondo devo riconoscere che sono capitata bene. Ho sempre sognato di poter avere un giorno una cameretta come questa, tutta per me. La stanza è piccola, ma per me è sufficiente. C'è un lettino, uno sgabello, un armadietto, questo bel lavandino, l'indispensabile. Certo, non è che danno il superfluo, ma il necessario sì. È tutto gratis, anche il vitto, e lo servono in camera, senza che debba nemmeno scomodarmi. Non sono mai stata così bene. Ho guadagnato anche qualche chilo. E non mi vengano a dire che la vita sedentaria è perché non ho problemi né preoccupazioni. E ne sto qui, tranquilla e serena, in pace con Dio e con gli uomini. Se penso a com'era di triste la mia vita prima, la fatica per guadagnarmi da vivere, i soldi non bastavano mai. Anche se facevo una vita modesta e mi accontentavo di un piatto di minestra e di un letto pulito. Ma dovevo scendere in cortile ogni momento, col secchio in mano, perché nonostante l'affitto che pagavo, non avevo nemmeno l'acqua in casa. Qui invece, alla sera, quando vado a dormire, mi permetto il lusso di lasciare il rubinetto un poco aperto, perché mi piace prendere sonno sentendo l'acqua gocciolare. È così bello svegliarsi durante la notte sentendo nel silenzio profondo quel cic, cic, cic. E al mattino svegliandomi quel cic, cic, cic. Che mi dà il buongiorno. Mi alzo, mi lavo, mi insapono, mi sciacquo, poi comincio i miei lavoretti di pulizia. E quando ho finito riprendo a lavarmi. Ma è proprio vero che la pulizia fa bellezza. Qui dentro un granellino di polvere non fa in tempo a posarsi che lo spazzolo subito via. In queste cose sono di un'ambizione, alla pulizia addosso e attorno a me ci tengo. Quando ero fuori mi avevano appioppato un nomignolo. Mi chiamavano la nettezza urbana, sanitation. Ma io me ne fischiavo di quello che diceva la gente e di quello che dice ancora. L'importante è di avere la certezza matematica che il mio avvenire è assicurato e che passerò qui il resto della mia vita. Sola, sola, con la compagnia dell'acqua che gocciola nel lavandino. Cic, cic, cic. È una meraviglia. Però è tutto meritato. È stato proprio un premio. Quando l'avvocato mi ha detto le hanno dato l'ergasto, io l'ho guardato senza capire, non sapevo nemmeno cosa volesse dire. Poi lui mi ha, sapete cos'è l'ergastolo? La galera a vita, ok, come lui guardava perciò lui. Non sapevo nemmeno cosa volesse dire. Poi lui mi ha spiegato, scusate, posso rispondere perché non so, pensavo di averlo. Hello? Hello? Forse è meglio. Good afternoon. Hello? Pronto? Come good afternoon? I don't speak English. Do you speak Italian? Pronto? 3, 4, 7, 6, 2, 7, 5, 8, 6, vabbè, tanto si può vedere. Pronto? Chi sei? Come si dice in inglese? Who are you? No, tu speak English. Oh, pronto. Ciao, ciao. Devi spegnere, così non so, lei non lo conosco questo nome. Però è una donna, questo è importante. Allora, poi si può vedere che numero ti ha chiamato? Sì. Va bene, poi insegnate come si fa. Bene. Allora. È tutto meritato. Non so, poi lui mi ha spiegato e allora ho tirato un sospirone di sollievo. Perché è una liberazione sapere che i problemi e le preoccupazioni sono finiti. L'ergastolo è proprio una bella parola. Ma ora soltanto posso apprezzare completamente cosa significa. Perché prima era bello, ma non così. Ce n'è voluto perché si decidessero a farmi contenta dandomi anche la segregazione cellulare. Perché dover vivere con le altre persone che nemmeno si conoscono, volgari, sciatti, dispettose, parlavano tutto il giorno, litigavano fra loro, cantavano, certe canzonacce che avevano imparato chissà dove e che mi facevano vergognare. E sporche poi, le unghie nere, le mani unte, i capelli arruffati, ce n'erano di quelle che non si lavavano mai. Ma mi facevo forza. E al momento giusto, quando non se l'aspettavano, mettevo la testa sotto il lavandino e le insaponavo. Gridavano, strillavano, tiravano calci, ma io niente, non le mollavo. Continuavo a insaponare, che le ammazzava chiaramente, no? Alla fine sono stata premiata, perché il direttore ha detto che non mi era possibile stare in compagnia e mi ha concesso l'isolamento. Ora, ogni tanto, viene una suora per insistere che almeno esca un po', che vada a respirare una boccata d'aria buona. Con le altre? Grazie tante, preferisco non muovermi di qui. Qui sto bene, questo posticino me lo sono guadagnato. E lo sapete come? Con la pulizia, semplicemente con la pulizia. Ma so io quanto ho faticato per non venir mai meno a questo mio principio, specialmente in tempo di guerra, quando non si trovava nemmeno un pezzo di sapone. Ma io sono stata furba. Avevo sentito dire tante volte che coi grassi si fa il sapone, ma io non ci avevo mai pensato. Finché un giorno, in cui ero disperata perché non sapevo più come fare a lavarmi, si presentò alla porta uno straccivendolo con un pancione. Io l'ho guardato e mi sono detta, ma se è proprio vero che con i grassi si fa il sapone, perché non provare? Era un omaccione schifoso, sporco, disordinato, con un vestito tutto sbrindellato ed urno, uno di quei tipi che non hanno mai toccato l'acqua se non per bere e che su questo mondo non si sa cosa ci stiano a fare, tanto sono inutili. Allora mi è venuto in mente di utilizzarlo per fare un esperimento. E non è che nemmeno sul momento ne fossi molto convinta. Mi pareva impossibile che da quel mucchio di sporcizie e sudiciume venisse fuori del sapone. Invece, a cose fatte, rimasi a bocca aperta. Ah, un sapone bianco, bianco, che faceva una schiuma meravigliosa. Un mistero, un miracolo della natura. Mi sono sentita allargare il cuore dalla consolazione. Mi sono buttata a capofitto nell'impresa e con un entusiasmo. Non ho mai lavorato tanto in vita mia, perché era una bella fatica. Si trattava di lavoro pesante, difficile da organizzare. Trovare la persona adatta, poi invitarla a casa e infine liberarla da tutti quei pezzi che non servivano. I denti, per esempio. I denti non c'era verso di farli sciogliere. Me l'ha presa come una smania, una smania. Giorno e notte ero lì, davanti al calderone, a rimestare, ad attizzare il fuoco, e riempivo la casa di sapone, credenze, armadi, cassettoni. Ma lo sapete la cosa più strana di tutto questo qual è? Dalle persone più sporche, più luride, veniva fuori il sapone migliore. Non lo rivelavo a nessuno, ed ero felice di darne a tutti. In cambio non volevo niente, se penso che proprio al processo quelle persone da me beneficate mi guardavano inorridite, bella riconoscenza. Ad ogni modo devo dire grazie anche a loro se sono qui. Con la loro testimonianza mi hanno aiutato a far capire ai giudici quello che avevo fatto, perché quelli a me non volevano credere. Eppure dicevo la verità, l'avevo detta fin dal primo momento. Fin da quando due poliziotti erano venuti da me per chiedermi se potevo dare qualche notizia di tutte quelle persone che negli ultimi tempi erano sparite. Io mi ero messa a ridere, sparite, ma no! Avevo aperto armadi, cassettoni, credenze, non erano sparite, erano ancora in gran parte lì e avevo utilizzate. Ma ce n'è voluto del bello e del buono per convincere tutta quella gente che da quel momento in poi cominciò a interrogarmi. E solo al processo ci sono riuscita del tutto. E allora hanno capito che se non lo davano a me l'ergastolo, a chi l'avrebbero dovuto dare quel premio? E così il mio premio l'ho avuto. Ora me ne sto qui e mi sento così felice. Sovente mi metto persino a cantare, tanto sono contenta. con grande rabbia delle altre che questa mia allegria non la capiscono. Quando passano nel corridoio per andare a fare la passeggiata in cortile, se mi sentono cantare, mi insultano dallo spioncino, mi dicono parolacce, mi gridano saponificatrice, saponificatrice. E con questo, chissà cosa vogliono dire. Io sono una personcina pulita. Quando non si trovava più sapone, per averne mi sono ingegnata. Ed è per questo che sono qui. Loro invece, sporcaccione erano e sporcaccione sono rimaste. Non capiscono niente, poverette. Ma loro non sanno che l'unica gioia della vita è quella di lavarsi. Lavarsi con acqua e sapone. Oh. Allora, questo, dunque, prima di leggere l'ultimo, dovete sapere, cari amici, queste persone non sono assolutamente